al sole non la guardar. Ho detto al vento non la baciar, ma il sole dal cielo ti ha guardata, lo so, e il vento passando ti ha baciata. La luna con le stelle spuntò, i tuoi capelli d'oro sfiorò, ti bacia il firmamento, da me soltanto non vuoi lasciarti baciare. Come vorrei che ti lasciassi adorare, come vorrei poterti amare. Tutto è vano, sei lontana e fredda, gelida, non ti lasci amare. Ho detto al sole non la guardare, ho detto al vento non la baciare, ma il sole dal cielo ti ha guardata, lo so, e il vento passando ti ha baciata. La luna con le stelle spuntò, i tuoi capelli d'oro sfiorò, bacia il firmamento, da me soltanto non vuoi lasciarti baciare. Bacia il firmamento, da me soltanto non vuoi lasciarti baciare.